Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. $200 milioni sequestrati all'Andrangheta, e c'è anche lo storico Caffè de Paris di Via Veneto a Roma, quello della Dolce Vita. Blackout a Napoli, in 15.000 senza elettricità e parte del centro in tilt. 500.000 di posti di lavoro a rischio a causa della crisi, secondo il CNEL, ma aumenta la fiducia nel futuro degli italiani, secondo Confcommercio. Morti per l'amianto, al processo Eternit ci sono 2 rinvii a giudizio. Prosegue la guerra tra Berlusconi e il gruppo Espresso, che deposita un esposto contro il presidente del Consiglio, frase di un attimo fa di Silvio Berlusconi: non sono un santo, lo avete capito tutti. Mondiale di nuoto, bronzo per l'italiana Grimaldi nella 10 km di fondo, mentre il mondo guarda il giovanissimo campione dal trampolino. All'edicola di Via Veneto troviamo un avventore d'eccezione, l'attore Kirk Douglas, famoso protagonista del film Asso nella Manica. Via Veneto è l'approdo obbligato sulla rotta delle celebrità più o meno effimere del nostro tempo. E dunque partiamo da qua, da una storia di cronaca, una grande storia di cronaca che riguarda anche il Caffè de Paris, il caffè della Dolce Vita, un caffè storico, una maxi operazione contro l'Andrangheta, beni sequestrati per €200 milioni. Savino Gallo, hai seguito la conferenza stampa che si è svolta a Roma, la conferenza stampa degli inquirenti, che cosa è emerso? Sì, buongiorno dalla Procura Nazionale Antimafia, dove si è appena conclusa la conferenza stampa sul maxi sequestro eseguito questa mattina dai carabinieri del ROS e dai reparti GICO e SCICO della Guardia di Finanza. Un'operazione che ha messo i sigilli ad attività commerciali dal valore di circa €200 milioni, attività riconducibili alla cosca calabrese degli Alvaro Palamara, ma quasi tutte intestate a dei prestanome. Tra queste, 2 storici ristoranti di Via Veneto, il Giorgis e il Caffè de Paris. Quest'ultimo, che ha dato il nome all'intera operazione, risultava di proprietà di Damiano Villari, barbiere di Sant'Eufemio a Spromonte. Come detto, però, gli inquirenti sono riusciti a risalire alle reali proprietà, tutte legate ad un ramo della famiglia Alvaro, trasferitasi nella capitale ormai da alcuni anni. Ma sentiamo il procuratore capo del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. Questa è la prova che la mafia calabrese, l'Andrangheta, ricicla, reinveste il denaro guadagnato col traffico di stupefacenti in tutta Italia, in tutta Europa. Qui ci sono una serie di beni di lusso, molti di questi sono addirittura intestati a una persona originaria paesina della Calabria dove faceva il barbiere. Questo dimostra anche la capacità dell'Andrangheta di infiltrarsi in ambienti assolutamente non sospetti. Ringraziamo il nostro Savino Gallo per questa cronaca e andiamo proprio all'analisi, partendo dalle parole di Pignatone. Ci colleghiamo con la Calabria, con Filippo Veltri. Filippo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, l'operazione di oggi sembra, lo sentiamo appunto anche dalle parole del procuratore, conferma l'estendersi dell'organizzazione in tutta Italia, Filippo. Beh sì, l'analisi di Pignatone fa seguito, fra l'altro, a un'analisi che la stessa Direzione Nazionale Antimafia ormai da anni va facendo, anche se si vuole con paradossi, cioè che la vera capitale dell'Andrangheta, è stato detto più volte, non è Reggio Calabria ma Milano, ma potrebbe essere qualsiasi altra città del nord Italia. Ora prendiamo Roma, il solo valore del Caffè de Paris si parla di €55 milioni, quindi voglio dire, le attività principali dell'Andrangheta sono da tempo spostate fuori dalla Calabria, dove peraltro il livello economico non potrebbe soddisfare gli appetiti di delle cosche mafiose calabresi, ma dobbiamo pensare anche a fuori l'Italia, quello che è avvenuto in Germania 2 anni fa, testimoniato dell'esplosione del fenomeno della mafia in quel paese, quello che da anni vanno dicendo i magistrati di Reggio Calabria sulle penetrazioni a Bruxelles, nell'est europeo, nel traffico della droga in Colombia, e per ultimo un'analisi che ha portato alla luce anche l'allora capo della squadra mobile di Cosenza, Nicola Calipari, che morì, come ricordiamo, in Iraq, sull'espansione dell'Andrangheta in Australia. Cioè, voglio dire, il quadro che emerge da quest'ultima operazione è l'ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che ormai le attività principali dell'Andrangheta non sono più in Calabria ma sono fuori dalla Calabria. E sembra essere dunque, Filippo, la criminalità organizzata, la mafia che maggiormente riesce ad espandersi nel pianeta e nel resto del paese. Sì, perché tra le altre cose, in questa in maniera un po' colpevole da parte di tutti, si è estesa e si è così ramificata in un silenzio che ormai, insomma, da un paio d'anni si parla della 'ndrangheta calabrese, ma per decenni il problema principale delle mafie era rappresentato da Cosa Nostra o dalla Camorra, mentre poi si è dimostrato nei fatti, con le indagini pazienti che hanno svolto poliziotti, carabinieri, finanzieri, magistrati, si è dimostrato nei fatti che nel silenzio era cresciuto un altro tipo di attività criminale, un altro tipo di pressione criminale, che fra l'altro non ha dato alcun pentito, perché l'organizzazione della 'ndrangheta, se si escludono 4 o 5 collaboratori di giustizia, non ne ha nessuno, è cresciuta a dismisura ed ha potuto, nel silenzio e nel disinteresse, aggiungerei io, nel disinteresse, arrivare a questi livelli. E grazie Filippo Veltri per questa analisi, per l'analisi sull'operazione che si è svolta oggi. Noi restiamo al sud, ma andiamo un po' più su, andiamo a Napoli per il blackout che ha colpito una parte della città, una parte del centro è andata in tilt. Laura Viggiano, buongiorno, che cosa è successo? Sì, buongiorno. I tecnici di Terna ed Enel sono ancora al lavoro per rimediare al guasto che questa mattina alle 6.35 ha lasciato senza corrente ben 70.000 utenti. Grazie a risorse alternative si è riusciti in poche ore comunque a lenire i disagi almeno al 75% delle abitazioni, degli uffici, dei negozi interessati, tutti situati nel centro di Napoli. Il guasto infatti è stato registrato sulla rete ad alta tensione gestita da Terna per poi espandersi con effetto domino sul resto della rete gestita invece dall'Enel ha riguardato in particolare il cavo da 220 kV a Stoni Napoli Centro, che alimenta la zona della Doganella, quindi a nord-est del capoluogo, e il centro. Il blackout ha creato non pochi disagi, come potete immaginare, alla città, ma entro le 13.30, assicura la società Terna, dovrebbe essere tutto risolto con una rialimentazione alternativa. Da Napoli è tutto. E grazie Laura Viggiano anche a te per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo a parlare delle cronache della crisi, se così vogliamo dire. Poco fa ci sono le dichiarazioni di poco fa del ministro alle attività produttive Claudio Scajola, che parla di una modesta ripresa dell'export intorno all'1,5%, mentre invece qualche dato un pochino più preoccupante è arrivato questa mattina dal CNEL, qualche stima soprattutto sull'occupazione. Vincenzo Miglietta, quali sono queste stime? Sì, buongiorno, è così, non sono certo dati confortanti quelli diffusi questa mattina dal CNEL per le dinamiche occupazionali. Gli effetti della crisi economica, segnala il rapporto diffuso dall'organo costituzionale guidato da Antonio Marzano, potrebbero mettere a rischio già quest'anno fino a 500.000 di posti di lavoro. Nel caso peggiore, prevede il CNEL, la disoccupazione continuerà ad aumentare e il ricorso agli ammortizzatori sociali sarà ancora significativo. I posti di lavoro a rischio oscillano tra le 350.000 e le 540.000 unità, quanto ai disoccupati potrebbero aumentare in una forchetta che oscilla tra le 270.000 e le 460.000 unità. Sul fronte crescita poi le previsioni del CNEL si uniformano a quanto previsto dal governo, con un PIL che potrebbe chiudere l'anno con un meno 5-7%, un dato però è confortante: secondo il rapporto il punto più basso della recessione è stato superato. Vincenzo, nel frattempo prosegue il lavoro sul decreto anticrisi e naturalmente sul documento di programmazione economica e finanziaria. Sul fronte delle misure anticrisi, il testo approvato ieri dalle commissioni finanze e bilancio è arrivato oggi qui in aula a Montecitorio. Con l'intervento dei relatori è iniziata la discussione generale. Sul testo appare scontato che il governo porrà la fiducia, questo dovrebbe avvenire alla fine degli interventi previsti, sono una sessantina, e quindi tra questa sera e domani. Il testo poi passerà al Senato e proprio a Palazzo Madama è in discussione il DPF, la cui approvazione è prevista la prossima settimana. Simone. Sì Vincenzo, ci sono parecchi emendamenti al decreto? Al decreto in questione ce ne sono molti, superano il centinaio, e quindi sarà molto interessante vedere quali passeranno, proprio perché ricordiamo ieri le tante discussioni nelle commissioni, quindi molte iniziative, molti emendamenti che sono rimasti fuori dall'approvazione di ieri. Vediamo in aula come cambierà il testo. Grazie Vincenzo anche oggi per questi aggiornamenti, queste cronache dalla crisi. Altri dati però sono stati diffusi dalla Confcommercio e dal Censis, che questa mattina hanno presentato un rapporto, un'indagine. Sentiamo. Il picco della crisi è probabilmente superato e aumentano le famiglie che guardano al futuro con ottimismo. A dirlo è un'indagine sul clima di fiducia e le aspettative delle famiglie realizzata da Confcommercio e Censis. Una famiglia su tre resta pessimista nei confronti del futuro, dice lo studio, ma aumentano gli ottimisti. Il 57% delle famiglie italiane ha meno paura del domani. A gennaio erano il 52%. E più fiducia significa anche più consumi. Nel primo semestre del 2009 il 44% delle famiglie ha speso di più rispetto agli ultimi 6 mesi del 2008, mentre il 43% non ha cambiato abitudini di spesa. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Resta valida la nostra richiesta di compatibili misure di riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro per sostenere la domanda interna e soprattutto per contrastare la spirale tra crisi dei consumi ed aumento della disoccupazione. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prendiamoci un attimo di respiro, poi dopo la viabilità torneremo sulle notizie, diciamo così, più di più stretta attualità politica e finanziaria, soprattutto con le parole di Silvio Berlusconi. Ci prendiamo un attimo di respiro e lo facciamo con il cinema, perché la Francia omaggia Nanni Moretti. Nei cinema da oggi tornano i suoi film storici, con protagonista il suo alter ego, Michele Apicella, film che presto torneranno anche su Sky Cinema. Sentiamo. Oggi è il nostro ultimo spettacolo e come verifica del nostro lavoro noi avevamo pensato, no, appunto, vorremmo fare un dibattito. Aveva 23 anni quando girò Io sono un autarchico. Era il 1976. Nanni Moretti torna da oggi nei cinema francesi proprio con quel film, insieme a Ecce Bombo del 78 e Sogni d'oro del 1981. Silvio, ti voglio bene, ma francamente fare l'aiuto regista con questi turbi, il cinema italiano è razzista. Il italiano è razzista perché se la prende con i vecchi, gli omosessuali, le donne brutte, gli strabici, gli storti, no? Invece contemporaneamente c'è tutto un altro cinema di idee che sta venendo fuori, si sta facendo le ossa, sta crescendo. Si può definire come il romanzo personale di Moretti, scrive oggi Le Monde, che pubblica una lunga intervista al regista, Palma d'Oro a Cannes nel 2001 per La stanza del figlio. Le Monde lo descrive come un Woody Allen, ma più arido, più europeo, cattolico, di sinistra che americano, ebreo, liberale, ma che allo stesso modo usa la parola come nervo della guerra, soffio che mette il mondo in movimento e anche vivaio inesauribile di gag. Tutti parlate di cinema. Tutti parlate di cinema, no, tutti! No, ma noi ne possiamo parlare perché mi sembra che... No! Parlo mai di botanica, parlo mai di algebra! Michele, tu stai facendo un film bellissimo! Io non parlo di cose che non conosco, parlo mai di epigrafia greca, parlo mai di elettronica, parlo mai delle dighe, dei ponti, dell'autostrada! Io non parlo di cardiologia! Intanto Nanni Moretti si preoccupa della salute del cinema italiano e ieri alla presentazione dei nuovi canali cinema di Sky ha chiesto di rinnovare il cosiddetto pacchetto Anica, il contratto della rete satellitare con il cinema italiano scaduto un anno fa. Bisogna ricordare a Sky che deve rinnovare un accordo che non è stato più rinnovato, per cui c'era l'obbligo d'acquisto, insomma, per i film italiani che superavano una certa soglia, 20.000 spettatori in sala. Sky rassicura, il discorso con l'Anica è ancora aperto, è un dialogo che va avanti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 16 minuti, 33 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo parlato del maxi sequestro di beni dell''Ndrangheta avvenuto questa mattina, 200 milioni di euro. Tra questi c'è anche lo storico Caffè de Paris di Via Veneto a Roma, quello della Dolce Vita, che ne vale da solo 55 milioni di euro. Abbiamo parlato del blackout a Napoli, ci sono state grosse difficoltà soprattutto in centro, in 15.000 sono rimasti senza elettricità e parte appunto del centro è andato in tilt. Abbiamo parlato dei dati economici, quelli che sono arrivati dal CNEL, che stima mezzo milione di posti di lavoro quelli a rischio a causa della crisi, di Confcommercio che vede aumentata la fiducia nel futuro degli italiani. Abbiamo parlato anche del ministro Scajola che parla di una lieve ripresa dell'export. Ora ci occupiamo di politica. E lo facciamo perché la situazione resta complessivamente piuttosto tesa, non solo, diciamo così, dalle parti del centrodestra. Di poco fa, ad esempio, la notizia di una lettera inviata da Antonio Di Pietro, una lettera aperta di Antonio Di Pietro al Presidente della Repubblica, che gli dice: la prego, Presidente Napolitano, mi risponda nel merito invece di offendermi anche lei gratuitamente. Insomma, parla di offese da parte del Presidente della Repubblica per i rilievi mossi da Napolitano a Di Pietro dopo le polemiche sul decreto sicurezza. Ma soprattutto di poco fa ci sono le parole di Silvio Berlusconi, che seguono un nuovo atto da parte del gruppo L'Espresso. Vediamo di fare il punto, Elisabetta Fiorito. sono un santo, lo avete capito tutti, speriamo che lo abbiano capito anche quelli di Repubblica. Sono queste le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi qui a Milano, che acuiscono ancora di più lo scontro con il gruppo editoriale romano. Questa mattina il gruppo Espresso ha depositato presso il Tribunale di Milano un esposto nei confronti di Berlusconi per le dichiarazioni del 13 giugno. Lo ricordiamo, il Premier aveva accusato il quotidiano di un attacco eversivo nei suoi confronti e nel contempo aveva istigato gli imprenditori ad interrompere gli investimenti pubblicitari. Poi tutto rimandato a settembre per la discussione sulle pubblicazioni delle telefonate tra la Daddario e il Premier Silvio Berlusconi a Palazzo Madama. Per Maurizio Gasparri, PDL, c'è tutto il tempo per discutere. Come era prevedibile, l'aula del Senato ha stralciato le due mozioni presentate dal PD sulla discussione del G8. Queste due mozioni contenevano riferimenti alle telefonate del Premier e Anna Finocchiaro dice le mozioni erano attinenti e riguardavano la sicurezza nazionale messa a rischio dai comportamenti del Premier nei giorni precedenti al G8. Comunque anche ieri l'aula di Palazzo Madama ha assistito poi a un duro scontro tra Zanda del PD e Quagliariello del PDL. Lo scontro tra Gruppo Espresso e Premier continua continua anche lo scontro PD-PDL, Simone. Allora, Elisabetta, rimani un attimo in linea con noi perché facciamo il punto sull'inchiesta di Bari che ha anche toccato, nella quale è emerso il nome del Presidente del Consiglio che comunque non è indagato, e poi parleremo invece della situazione del Partito Democratico. Sentiamo il servizio. Droga ed escort separati dalla corruzione. Come anticipato dal Procuratore della Repubblica di Bari, Emilio Marzano, alla vigilia del G8 all'Aquila, le indagini sulla cocaina che l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini avrebbe ceduto a propri ospiti, così come quelle sul presunto giro di escort che avrebbero partecipato a feste esclusive in residenze private del Premier, oltre ad essere state stralciate, sono entrate nella fase conclusiva. In particolare per quella sulla droga, l'avviso di conclusione delle indagini sarebbe imminente. Al centro dei due filoni d'inchiesta anche i rapporti tra Tarantini e Silvio Berlusconi. Il giovane pugliese, secondo l'accusa, forse per accreditarsi presso il Presidente del Consiglio, si sarebbe preoccupato di allietare alcune serate con giovani quanto disponibili ragazze. Intanto sul sito dell'Espresso sono state pubblicate altre trascrizioni di colloqui tra Patrizia Daddario e Berlusconi e tra la Daddario e Tarantini. Non si tratta di intercettazioni ma di conversazioni che la 42enne barese ha registrato. Ieri la procura ha spiegato infatti che la fonte non può essere Palazzo di Giustizia perché il materiale è chiuso in plichi sigillati e custoditi in una cassaforte blindata. Occorre più tempo infine perché il PM inquirente Giuseppe Scelsi chiuda il capitolo da cui sono partiti gli altri due, cioè quello sulla presunta corruzione nella fornitura di protesi ospedaliere in cui sarebbero coinvolti esponenti del centro-sinistra pugliese. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. Questo dunque il quadro dell'inchiesta. Adesso andiamo dall'altra parte della barricata, per così dire, ossia quella del Partito Democratico, perché un po' di confusione c'è anche da quelle parti, Elisabetta. Sì, sul fronte del PD Beppino Englaro entra nella battaglia e si candida in Lombardia per la segreteria regionale. Englaro è appoggiato da Ignazio Marino, che lo ricordiamo è uno dei tre che concorre alla segreteria insieme a Franceschini e Bersani. Il padre di Eluana pensa che con Marino è possibile una fase nuova, ma precisa: non sono una bandiera, lotterò per la libertà come con Eluana. La candidatura viene però bocciata da Francesco Rutelli. Andiamo troppo a sinistra, così siamo fritti, dice in sostanza l'esponente più centrista dei democratici, Simone. Bene, chiarissimo Elisabetta. Tra l'altro poi c'è anche un quinto uomo, e grazie per questi aggiornamenti, c'è anche un quinto uomo candidato alla segreteria del Partito Democratico. Si tratta di Renato Nicolini, ben noto perché architetto, politico, drammaturgo italiano, conosciuto anche e soprattutto per le iniziative svolte quando divenne da assessore il creatore della cosiddetta Estate Romana. Allora, Renato Nicolini è con noi. Insomma, ci sembra di aver capito, anche leggendo l'annuncio della sua candidatura sul blog, che la sua è una candidatura di testimonianza. Beh, io spero anche di vincere, anche se diciamo c'è questa regola che non riesco, mi sembra abbastanza singolare, insomma, di chiudere non solo il tesseramento ma anche la raccolta delle firme a sostegno dei candidati. Mi sembra un po' strano, è come diciamo volere privare il congresso di quello che può essere l'elemento bello del congresso, cioè la conquista di consensi da parte dei singoli candidati. Insomma, questa cosa mi ricorda un po' le tecniche dei congressi democristiani, nel PC sarebbe stato inconcepibile, insomma, una regola del genere, anche se c'erano altri problemi, evidentemente. Ecco, oggettivamente converrà, Nicolini, che le probabilità di vincere non sono molto elevate. Ma non so, sa, io ho l'impressione che il PD sia un partito che è nato male. E nascendo male ha lasciato assolutamente intatte le ragioni per cui sarebbe dovuto nascere. È abbastanza evidente che in Italia c'è un vuoto politico che si è aperto con la caduta del muro di Berlino, con la scomparsa del PC, che non è mai stato riempito. Quindi, insomma, in qualche modo a me pare che questo sia l'obiettivo, riprendere il filo di una vicenda politica della sinistra italiana che stranamente si è spezzata subito dopo Tangentopoli, con un partito irrisoluto che ha sempre confuso le scelte politiche con questioni giuridiche, no? Che so, il periodo del maggioritario, la religione del maggioritario, insomma, mentre probabilmente in Italia si sarebbe dovuto fare un'analisi di quello che stava accadendo, capire che cos'era minacciato. È minacciato il settore strategico, fondamentale per l'identità nazionale, per l'identità italiana, che è la cultura. Oggi contro questo settore, diciamo, ci si scaglia come se fosse l'ultimo residuato dell'assistenzialismo democristiano, una vera beffa se si considera cosa ha fatto la DC contro il cinema italiano. Diciamo, questi sono ragionamenti che tutti quanti potrebbero fare, ma purtroppo né Bersani né Franceschini fino adesso hanno avuto l'intelligenza politica di farli. Bene, grazie a Renato Nicolini, quinto candidato alla segreteria del Partito Democratico. Ci sono Ignazio Marino, Mario Adinolfi e naturalmente i due favoriti, Pierluigi Bersani e Dario Franceschini. Passiamo a raccontarvi un'altra storia, quella del Tribunale del Lavoro di Milano, che ha accolto il ricorso di un ragazzo marocchino che lamentava di non poter essere assunto dall'ATM, l'azienda di trasporti milanesi, in forza di una legge vecchissima. Si chiama Mohamed Ailoua, è un cittadino marocchino che ha studiato in Italia come elettricista. Voleva presentare domanda all'ATM, l'agenzia di trasporti milanesi, come operaio, ma ha scoperto di non poterlo fare perché, stando a un regio decreto del 1931, per occupare quello o altri posti nel trasporto pubblico è necessario essere italiani o europei. O meglio, era necessario, perché ieri il Tribunale del Lavoro di Milano gli ha dato ragione, accogliendo il ricorso da lui presentato e giudicando discriminatorio il comportamento dell'ATM. L'avvocato Alberto Guariso. Le ipotesi erano due, o appunto l'implicita abrogazione della legge o la remissione alla Corte Costituzionale. Questa qui però è ancora più immediata, quindi presenta altri vantaggi. Nei confronti dell'ATM è immediatamente esecutiva, quindi oggi dovrebbero aver tolto il requisito anche dal sito, però non ho ancora vista. Invece, nel sito dell'ATM, fra i requisiti necessari per proporsi in azienda, c'è ancora la cittadinanza italiana o comunitaria. Interpellata, l'azienda non ha voluto commentare. Non si tira indietro, invece, l'eurodeputato leghista Matteo Salvini. Non penso ci sia bisogno di un ragazzo marocchino di 19 anni per salvare le sorti di ATM, quindi i giudici applicano la legge, altrimenti si candidano, fanno i parlamentari e cambiano la legge. Visto che parlano di discriminazione, andare in Marocco. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Ancora cronaca con i due rinvii a giudizio nel processo Eternit, ossia quello che riguarda i morti e malati per amianto, e ci colleghiamo in diretta con Torino, dove questo processo si svolge. Marco Ferrando, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, come dicevi da studio, sono stati rinviati a giudizio due imputati del processo Eternit, il barone belga Jean-Louis de Cartier de Marchen e il magnate svizzero Stefan Schmidheiny. Così infatti ha deciso il GUP Cristina Palmesino, che questa mattina ha chiuso l'udienza preliminare, una fase che era iniziata il 6 aprile e poi è proseguita in questi tre mesi. Per i due l'accusa sarà quella di disastro doloso, e rimozione volontaria di cautele. Questa mattina in aula erano presenti circa 150 persone, quasi tutte arrivate da Casale Monferrato, in certo senso l'epicentro della strage silenziosa dell'amianto. Tutte le fasi dell'udienza preliminare sono state seguite da queste persone, che sono venute regolarmente a Palazzo di Giustizia. Quando il giudice intorno alle 11 ha letto il rinvio a giudizio, si è levato spontaneamente un applauso, anche perché di fatto si tratta della seconda vittoria dei familiari delle vittime dopo l'avvio dell'inchiesta da parte della Procura di Torino. Il processo inizierà il 10 dicembre prossimo, dunque tra meno di tre mesi, e ricordiamo sarà il più grande sia per numero di casi trattati che per il ruolo dei dirigenti coinvolti, visto che si tratta del massimo vertice della multinazionale, dicevamo il più grande processo per amianto mai celebrato in Italia. Per ora è tutto, lì nello studio. Grazie anche a te Marco Ferrando. Chiudiamo questa parte del GR Extra Large con un racconto che ci arriva dall'India. Nei cieli dell'Asia, come sapete, c'è stata una grandissima eclissi. Per chi ne ha approfittato, mettendo sul mercato improbabili occhiali protettivi o affittando brandine in località mai sfiorate prima dal turismo, è stata un'occasione di business. Per altri invece è stata una chance unica per mettersi al riparo da sfortuna, disastri e calamità, con un bagno nelle acque del Gange proprio mentre il cielo si oscurava. Altri ancora hanno cambiato la propria routine mattutina per evitare di cucinare proprio durante la sovrapposizione tra sole e luna, una pratica sconsigliata dall'induismo. Qualcuno semplicemente si è chiuso in casa e ha pregato. L'eclisse del secolo ha messo ancora una volta, l'una di fronte all'altra, le tante anime dell'India in marcia verso la modernità. Da quella pronta a capitalizzare su ogni fenomeno, non importa quanto estemporaneo, a quella che continua a fare di fede e superstizione le stelle polari con cui orientarsi in un mondo sempre più difficile da interpretare. Per qualcuno il desiderio di assistere all'eclissi è stata fatale. Una donna di 80 anni è morta soffocata dalla calca, un incidente reso meno drammatico dal luogo in cui è avvenuto. Varanasi, la città sacra dove ogni indù sogna di andare a morire. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. Le 13:33 minuti, 54 secondi, le principali notizie della giornata. Berlusconi dice: non sono un santo, l'avrete capito. In mattinata il gruppo Espresso aveva depositato un esposto contro il presidente del Consiglio. Ci sono 200 milioni che sono stati sequestrati alla 'Ndrangheta, c'è anche lo storico Caffè de Paris di Via Veneto a Roma, quello della Dolce Vita. In mattinata c'è stato un blackout a Napoli, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, in 15.000 sono rimasti senza elettricità e parte del centro è andato in tilt. Ci sono 500.000 di posti di lavoro a rischio a causa della crisi, secondo il CNEL. Ma secondo Confcommercio aumenta la fiducia nel futuro da parte degli italiani. Fiat perde 179 milioni di euro nel secondo trimestre, lo avete sentito poco fa anche dagli aggiornamenti di borsa, ma conferma gli obiettivi per il 2009. Morti per l'amianto, al processo Eternit ci sono due rinvii a giudizio. Il mondiale di nuoto, bronzo per l'italiana Grimaldi nella 10 km di fondo, mentre il mondo guarda al giovanissimo campione dal trampolino. E ora parliamo di Iran. I giornali in realtà ormai ne parlano poco, eppure le notizie continuano a fluire. E le notizie di ieri sono che ci sarebbero state nuove manifestazioni, delle nuove manifestazioni molto violente, appunto con nuovi arresti. Insomma, sembra che nonostante una repressione molto violenta, molto dura, la protesta dei riformatori non si fermi. E ne parliamo col nostro Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore ed esperto di Iran. Buongiorno Alberto. Allora, a chi pensava che questa fosse una protesta effimera, la risposta è molto forte, diciamo. Ma certamente, innanzitutto, come ho dovuto ripetere diverse volte, l'Iran è un paese che forse noi non conosciamo mai troppo a fondo ed è sempre in grado in qualche modo di sorprenderci. Nelle settimane scorse c'era stata questa sorta di repressione e in qualche modo era stata accolta fuori dall'Iran come una sorta di pietra tombale sul movimento dell'onda verde, dei riformisti e delle proteste. In realtà poi abbiamo visto che non solo queste proteste si ripetono, ma che percorrono tutto il corpo sociale e anche i vertici della stessa Repubblica Islamica. Venerdì scorso Rafsanjani, l'Ayatollah Rafsanjani, ha parlato dal pulpito della preghiera del venerdì con parole molto forti di critica alla rielezione di Ahmadinejad e contro l'establishment, al quale peraltro lui appartiene, essendo stato uno dei fondatori della rivoluzione. Questo testimonia le profonde divisioni che ci sono anche a livello di vertice, e queste manifestazioni di massa in qualche modo vengono un po' in aiuto anche dei titubanti europei, sempre in grandi difficoltà quando si tratta di condannare la violazione dei diritti umani, e in fondo la grande attivismo degli studenti iraniani, il fatto che queste manifestazioni continuano, vengono proprio in aiuto di quell'Unione Europea che dovrebbe prendere una decisa condanna di tutte le violazioni dei diritti umani. Grazie Alberto Negri per questa bella analisi e per averci chiarito un po' lo scenario. Buona giornata. E voi. Allora, altre elezioni presidenziali sono alla vista. Quelle egiziane, un sondaggio fa discutere. Adib Fateli. Se gli egiziani fossero chiamati a scegliere un successore al loro anziano presidente Hosni Mubarak, la guida del più grande paese arabo sarebbe una partita a due tra due 45enni. Il figlio dello stesso Reis, Jamal, è il noto dissidente liberale Ayman Nur, uscito di recente dal carcere grazie alla pressione dell'amministrazione americana. Lo rivela un sondaggio di un popolarissimo sito web egiziano che assegna al leader dell'opposizione il 24% di preferenze contro il 22% del secondo genito di Mubarak, attualmente alla guida del partito di governo. I due sono però seguiti a ruota da un terzo candidato decisamente scomodo. Si tratta di Hesam Arian, esponente dei Fratelli Musulmani, l'organizzazione radicale dalla cui file è uscito il numero due di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Secondo la stampa araba, l'81enne Reis, oramai logoro e depresso per la prematura morte di un nipote, starebbe pensando di anticipare le elezioni per fare eleggere suo figlio. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Dal possibile presidente egiziano passiamo ad un altro presidente, quello americano, Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, si parla di Obama, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, per il calo di popolarità. Calo di popolarità dovuta ad una cosa precisa, ossia la riforma della sanità. Ebbene, oggi sul New York Times se ne parla. Sì, è proprio quello che il New York Times anticipa, è il discorso che Obama terrà stasera, che sarà una specie di conferenza stampa, ma anche quasi un discorso alla nazione. L'opportunità per spiegare ancora una volta alla nazione che, e quindi per riflesso ai parlamentari e ai membri del congresso che, rappresentando i cittadini americani, voteranno poi il piano sulla salute, spiegare ancora una volta di che cosa si tratta, perché è così importante, perché è una tale svolta epocale che come tale avrà dei costi altissimi. Come sentivo anche stamattina nell'analisi dei giornali, noi italiani facciamo fatica a capire quanto sia difficile avere l'assistenza pubblica negli Stati Uniti medica, cioè capita veramente di andare in ospedale e dover dare la carta di credito anche solo per farsi mettere un cerotto. Questo Obama, che a noi sembra un non senso, lo vuole cancellare. Altrettanto strano può sembrare che ci siano così tante perplessità, eppure ci sono, e sono sostanzialmente legate al costo che questa gigantesca riforma avrà. Quindi secondo il New York Times sarà veramente l'occasione in cui Obama dovrà sfoderare non tanto il suo fascino, ma proprio la capacità di far capire quanto è importante, quanto è sostanziale il sacrificio che sta chiedendo agli americani in un momento già difficile. Suggerimenti di politica economica, magari, che arrivino a Palazzo Chigi e dintorni. Dalla Francia c'è qualcosa di interessante, sì, Giulia? Interessantissimo, forse poco pubblicizzato finora, ma giustamente forse perché è una cosa tutta interna, il piano del governo Sarkozy per aiutare le piccole e medie imprese. È stato varato alla fine dello scorso anno, è entrato in vigore il 1 gennaio del 2009, è tempo di fare un bilancio, e secondo Le Figaro, che però ricordiamo è molto vicino al Presidente Sarkozy, lo ha sempre sostenuto, però qui si parla di dati economici, quindi può esserci magari maggiore enfasi nel darli, però sempre di dati economici si tratta, sottolinea quindi Le Figaro che queste misure misure che considerano sgravi fiscali, incentivi per chi assume, semplificazioni di tutte le pratiche burocratiche quando si apre una piccola media impresa o di tutto quello che deve fare, deve sbrigare la piccola media impresa quando ha a che fare con la macchina dello Stato. Ebbene, da 300.000 circa aperture di nuove piccole, medie, piccolissime anche imprese nel primo semestre del 2008, si è passati alle 500.000 del primo semestre del 2009. Anche la Francia, come l'Italia, è un paese che ha questa spina dorsale fatta di piccole e medie imprese che in una crisi economica come questa forse vengono di nuovo, a loro viene di nuovo data l'importanza che di fatto hanno sempre avuto. Brevissimamente, Giulia, altro leader europeo, Zapatero. Sì, invece su Zapatero c'è il Paese che torna su una questione di cui abbiamo parlato spesso anche noi guardando i giornali spagnoli, che è quella dell'aborto. Zapatero ha voluto questa legge che permetterebbe alle ragazze che hanno meno di 18 anni ma più di 16 di abortire senza il permesso dei genitori, legge molto controversa, e si va verso una sconfitta. La legge probabilmente verrà bocciata e a dare il colpo finale sarà poi l'equivalente del Presidente della Corte Costituzionale spagnola, che tra l'altro è stato messo lì proprio da Zapatero, ironia non della sorte ma della legge. Ma questo è semplicemente per capire, fa anche capire che appunto la posizione su questi argomenti in Spagna, come del resto in Italia, divide ancora la società. Non basta una scelta politica per risolvere una questione così. Grazie anche per oggi, Giulia, e noi torniamo all'Italia, dove è terminata l'attesa dei passeggeri marocchini rimasti bloccati per 24 ore dopo la cancellazione del volo per Casablanca. Continua invece il momento nero della compagnia Myer. Si è risolta solo grazie all'intervento del governo marocchino l'odissea degli oltre 150 passeggeri rimasti bloccati nel nostro paese lunedì sera dopo la cancellazione del volo Myer Venezia-Casablanca. La compagnia vicentina, da tempo alle prese con guai finanziari e giudiziari, era stata bloccata dall'ENAC per il mancato pagamento di tasse spettanti ai gestori aeroportuali. E così è stato il governo di Rabat a sbloccare la situazione, inviando un aeromobile della Royal Air per riportare in patria gratuitamente i suoi cittadini. Sul volo hanno preso posto 109 delle 170 persone rimaste a terra, le altre hanno rinunciato al viaggio. La sorte di Maiere e di coloro che hanno già in tasca biglietti della compagnia rimane invece incerta. Per il segretario nazionale dell'Adiconsum, Pietro Giordano, si tratta di una situazione facilmente prevedibile. È un disastro annunciato, è la conseguenza anche di un mercato che si è abbondantemente liberalizzato, e questa è una cosa sana, però all'interno di queste liberalizzazioni si è realizzato anche una serie di compagnie che a volte sono combinate non proprio bene e saltano con tutte le conseguenze che i passeggeri hanno, fortemente negative. L'ENAC ha fatto sapere in queste ore che i vertici stanno analizzando il dossier Myer. Il rischio è quello di una sospensione della licenza. Il fantasma che nessuno osa nominare nelle sedi istituzionali è quello ben più temibile del fallimento. Fabio Pisano, GR24, Il Sole 24 Ore. Dai cieli alle strade, quelle del Tour de France, tappone oggi, Pier Augusto Staggi. Esattamente, un tappone di quelli veri. Oggi dovrebbe succedere di tutte, una delle pochissime possibilità per mettere in difficoltà Alberto Contador, che anche questa mattina sotto un cielo piombo è partito in maglia gialla, e lo stesso Franco Pellizzotti, che veste la maglia a pois di miglior scalatore. Tra l'altro la corsa ha già percorso 44 km e i corridori hanno già affrontato il Col de Roseran e hanno già anche terminato la salita e sono all'inizio del Col de Sens, e Pellizzotti ha già guadagnato altri 15 punti e quindi ha incrementato il suo vantaggio in questa speciale classifica di miglior scalatore, e al 90% Pellizzotti dovrebbe avere ormai vinto questa maglia, quindi incrociamo le dita, un italiano sul podio a Parigi ci dovrebbe essere. Ebbene, speriamo. Grazie Pier Augusto Staggi. Le 13:46 minuti, parliamo adesso dei conti Fiat e lo facciamo col collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan, che ha tra l'altro appena seguito la conferenza stampa dei vertici. Allora Andrea, che cosa emerge da questi dati? Dunque, i dati sono, come si attende naturalmente, in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Abbiamo un calo del 22% dei ricavi a poco più di 13 miliardi di euro, un utile ordinario a 310 milioni contro 1.131 miliardi e una perdita netta di 179 milioni contro un attivo di 646. Sono però dati che, tenuto conto della del periodo di crisi del settore auto e più in generale di tutti i mercati del gruppo Fiat, anche i camion e i trattori, sono dati complessivamente positivi e come tali sono visti dai vertici. Per esempio Fiat Auto, Fiat Group Automobile, cioè l'attività diciamo auto escluse Maserati e Ferrari, ha comunque avuto nel trimestre un calo dei ricavi limitato all'11,1% e un utile operativo di 155 milioni di euro, quindi con un margine circa del 2%, che in un periodo come questo è un dato rimarchevole e permetterà, credo, alla casa torinese di essere tra i pochi nel settore a chiudere in attivo, almeno per quanto riguarda questa prima parte dell'anno. Diciamo che come altro dato si può aggiungere, che dovrebbe sorprendere positivamente gli analisti, è una riduzione dei debiti a 5,7 miliardi di euro dell'indebitamento netto industriale, un calo superiore a quello che era stimato dagli analisti. Grazie Andrea Malan, anche se nel frattempo il mercato non sembra aver accolto benissimo il titolo Fiat, lo sentiamo anche prima, cede l'1,89%, vedremo poi come procederà nel corso della giornata. Noi torniamo alla cronaca, perché un bimbo di 7 anni è stato ucciso da 3 pitbull alla periferia di Acireale, in contrada San Cosimo, nel Catanese. A quanto pare il piccolo entrava spesso nel recinto per portare da mangiare agli animali che erano abbandonati. Deborah Rosciani, nella trasmissione Missione Soldi e Dintorni questa mattina, ha intervistato Lorenzo Croce, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, proprio anche sul tema appunto del randagismo. Sentiamo. In Sicilia la situazione è assolutamente drammatica. Allora, innanzitutto bisognerà capire se si tratta di animali custoditi o incustoditi, questo non è ancora chiaro, perché pare che questi animali stessero dentro un recinto. Se si tratta di animali custoditi, ovvio che la responsabilità penale è del custode o del padrone di questi animali. Comunque sia, ciò non toglie, perché ci risulta dalle prime informazioni che in quella zona lì fossero già state fatte diverse denunce per la presenza aggressiva di questi cani, ci sono delle responsabilità specifiche che sono in campo ai sindaci e ai veterinari dell'ASL, che hanno il dovere, secondo il decreto Martini dello scorso 3 marzo, appunto relativo alle razze pericolose, di verificare ogni segnalazione relativa alla presenza di cani pericolosi. I sindaci inoltre hanno la responsabilità, e ad oggi ci risulta che siano 5 i comuni italiani che lo hanno fatto, di fare dei corsi rivolti ai proprietari di cani, diciamo così, di media grossa taglia, ma non solo, proprio per insegnare a loro a convivere insieme alla popolazione. Ripeto, in Sicilia la situazione è particolare, però occorre una volta per tutte che soprattutto nel sud Italia si affronti la questione. La questione la si affronta in due modi: innanzitutto obbligando i 1600 comuni italiani che non sono in regola con i canili e con il servizio di accalappiamento dei cani a mettersi in regola, e questo spetta alle regioni, alle prefetture e al governo, e poi costruendo almeno 300 nuovi canili nel sud e 500 in Italia, perché non dimentichiamoci che in Italia abbiamo 600.000 cani randagi liberi sul territorio. Adesso ci occupiamo di una cosa della quale vi abbiamo già parlato, vi abbiamo già accennato nei giorni scorsi, ossia di una micro rivoluzione che sta arrivando e che riguarderà il mondo televisivo. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa congiunta della Rai, di Mediaset, di La7, per presentare un nuovo decoder. Insomma, qualcosa da chiedersi c'è, insomma, anche perché le innovazioni televisive nell'ultimo periodo sono state parecchie. Antonio Franco di Mille Canali, che è una rivista leader da 35 anni nel broadcast radio televisivo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, di cosa si tratta? Cos'è questo decoder? Questo decoder è un altro scatolino che va vicino al vecchio televisore o vicino al nuovo televisore, perché comunque il televisore nuovo comunque ha un decoder che è integrato eventualmente sugli ultimi modelli, che comunque può ricevere il digitale terrestre. Il discorso satellitare rimane a parte, e in questo caso quindi è un'altra scatola che si aggiunge vicino al televisore, eventualmente un altro telecomando. Questo qui ha di buono che può ricevere eventualmente sia il digitale terrestre che il satellite. Ecco, quindi innanzitutto è un decoder bivalente. Bivalente in questo caso, sì. E che cosa trasmetterà questo decoder? Riceverà TVSAT, i programmi di TVSAT, che è una piattaforma che vede presente Rai e Mediaset al 40% cada una, più il 20% di La7 Telecom. Allora, su questo fronte, tutto questo si è innestato su una sorta di battaglia, mettiamola così, tra Sky e il, diciamo, il duopolio, chiamiamolo così, insomma, il Rai e Mediaset. Che tipo di battaglia è stata, Antonio? Lo scenario viene fuori anche dall'incertezza con cui tu cerchi di formulare la domanda. Difatti, difatti, sì, è una situazione piuttosto complessa. Qui oggi capire di cosa parliamo comincia a diventare complicato. Da un lato ci sono due business model. Uno è quello dei contenuti, quindi dei programmi televisivi, che si ripagano con la pubblicità. È del vecchio modello della nostra televisione analogica terrestre, che abbiamo sempre visto, che non abbiamo mai pagato, che abbiamo pagato indirettamente con la pubblicità. L'altro invece è il nuovo modello introdotto alla televisione satellitare, che sono i contenuti a pagamento. Oggi qui è difficile fare questa netta distinzione, perché comunque Mediaset oggi vive ancora tanto di pubblicità e quindi offre contenuti gratuiti, ma ha una buona crescita per un fatturato che ormai rappresenta un 15% del fatturato totale, con i contenuti digitali a pagamento. Sky dall'altro lato invece fa contenuti a pagamento attraverso il satellite, però allo stesso tempo vende anche in parte, seppur in quota ridotta, comunque della pubblicità sui propri canali. Ecco, per chiudere, ci sono due modelli di business che sono in questo momento, almeno attraverso i due principali protagonisti privati della televisione italiana, sono due modelli di business contaminati tra di loro in un certo senso. Per chiudere, perché poi queste cose alla fine interessano a tutti. Allora, stanno uscendo notizie dalla conferenza stampa. Il direttore generale della Rai, Leone, dice che non è all'ordine del giorno l'abbandono di Sky dei canali generalisti della Rai, ossia la possibilità di vedere i canali generalisti della Rai su Sky. Perché si era parlato anche di questo, Antonio? Ci sono altri scenari dove comunque il direttore generale della RAI punta probabilmente a un rilancio, quantomeno, se così vogliamo dire, della contrattualizzazione, quindi dei soldi che Sky dovrebbe dare a RAI. Oggi siamo a 50 milioni di euro, si parla di una richiesta di 200 milioni di euro, che potrebbe in parte compensare una perdita prevista sul fatturato pubblicitario di circa 150 milioni che Rai più o meno ha ipotizzato. E, dall'altro però qui bisogna capire poi dove vanno a finire questi giochi. Difatti si sta creando una piattaforma alternativa a Sky che, tra le altre cose, nel momento in cui eventualmente né Rai né Mediaset, che attualmente non parla comunque ancora di un imminente abbandono della piattaforma Sky, se sono su un'altra piattaforma diversa da quella da Sky, proviamo a immaginare come sarà composto il telecomando a livello di memorizzazione dei programmi di un eventuale ricevitore satellitare, e quindi probabilmente ci saranno Rai 1, Rai 2, Rai 3, canale Rete 4, canale 5 e Italia 1 piuttosto che la 7, che quindi occuperanno le prime posizioni di questo ipotetico telecomando futuro satellitare, sì, che quindi in qualche modo vanno a slittare gli eventuali canali di Sky che oggi sono in buona posizione. Chiarissimo. Gli scenari sono tanti, le problematiche sono tante. Sono moltissime. Quindi è difficile contenerli. E lo spazio è poco. Grazie Antonio Franco di Mille Canali per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. E passiamo a parlare di mondiali di nuoto. Questo è un bel arrivo, vero Dario Ricci? Sì, direi proprio di sì. Simone, un saluto da Ostia, perché quello che sentivamo era l'arrivo della 10 km donne di fondo qui a Ostia, che oggi ci ha regalato la seconda medaglia di questi mondiali di nuoto, a conquistarle Martina Grimaldi, 20 anni, bolognese, tifosa della Virtus Bologna. L'abbiamo lasciata pochi istanti fa qui al ristorante La Bonaccia, davanti a un bel piatto di spaghetti e vongole, che è il giusto premio, oltre alla medaglia, per questa bellissima impresa, direi. Terza alle spalle della inglese Payne e della russa Seliverstova, in una volata veramente mozzafiato. Allora Dario, poi avremo modo di sentire la sua voce più avanti in A Tempo di Sport. Io c'è solo una cosa brevissima che ti voglio chiedere, perché abbiamo poco tempo, di questo fenomeno del quale abbiamo visto oggi sui quotidiani, insomma, un ragazzo di 15 anni pazzesco, chi è? Eh sì, è Tom Daley, incredibile il suo successo, 15 anni e campione del mondo della piattaforma 10 metri, si discute se sia la medaglia d'oro più giovane della storia, ma poco importa, il futuro e il presente suo, così come il futuro sicuramente, anche il presente, è di quella generazione di campioni che, di cui fanno parte le italiane Scarcella, Di Pietro, la canadese Reason, l'americana Basel, l'altra americana Pelton, tutti i ragazzi tra i 15 e i 16 anni che vediamo per la prima volta sul grande palcoscenico mondiale proprio a Roma. Insomma, fa un certo effetto pensare che saranno gli atleti di oggi ma anche dei prossimi 10-15 anni e vederli sbocciare nella città eterna fa venire qualche brivido, Simone. E grazie anche per oggi, Dario Ricci. Riassumiamo le notizie della giornata, ci sono le parole di Berlusconi, dice non sono un santo, l'avrete capito. Ci sono 200 milioni sequestrati alla 'Ndrangheta e in questi 200 milioni anche lo storico Café de Paris di Via Veneto a Roma, quello della Dolce Vita. Ci sono 500.000 di posti di lavoro a rischio a causa della crisi, secondo il CNEL. Morti per l'amianto, al processo Eternit due rinvii a giudizio. Fiat ha diffuso i conti del secondo trimestre, perde 179 milioni ma conferma gli obiettivi per il 2020. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Giorgio Matè e al coordinamento Daniele Biacchesi. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi torniamo domani alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.